Il regno si sta sgretolando. Non è il momento di tirarsi indietro. Seguiamo il rumore. Potrebbe condurci a qualcosa di importante.